fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qua, siamo di nuovo tornati in diretta, ovviamente sempre su Ristoradio Convento, la web radio del nostro locale convento di Lonato del Garda, e siamo tornati in diretta con un quintetto, direi, di ragazze che stanno festeggiando una bella serata. E allora vogliamo capire anche il perché, il motivo di questa festa e soprattutto chiacchierare un po' con la protagonista della stessa. La conosciamo meglio, eccola, come ti chiami? Marzia. Ciao Marzia, benvenuta, da dove vieni? Da Villa Carcina, provincia di Brescia. Ah, quindi indigena praticamente? Sì. Qui vicino, qui vicino. Ok. E questa sera cosa ti porta qui da noi? Dici un po'. Che settimana prossima mi sposo. Ah, settimana prossima? Ah, è vero che settimana prossima è già settembre praticamente. Sembra una vita fa che andavamo in vacanza, che era Ferragosto, è già settembre. Settimana prossima, perché qual è il giorno giusto? 7 settembre. 7 settembre, quindi 7-9, benissimo. E come va? Come va? Nel senso, cominci a sentire un po' di fuocherello? Ma è tutto... Eh beh, ci sta, ed è giusto anche che ci sia, evidentemente. Ma è tutto pronto? Come vanno i preparativi? Tutto a posto? No, ok, ma dici un po', dici... Come? Tutto a posto, perfetto. Ma dici un po', facci capire quando siete partiti, quanto tempo fa? Così almeno per, insomma, un po' di curiosità. No, beh, anche dal punto di vista anche organizzativo, più o meno, che tempistiche ci sono? Gennaio quest'anno? Ah, in 6 mesi, 7 mesi fa. Si può fare? Perfetto, perfetto. Beh, ma perché siete stati fortunati o troppo bravi, o perché veramente si può fare? Siete stati troppo bravi? Beh, mi piace. Ci sta, ci vuole anche un po' di modestia e un po' di onestà nel dire avrei fatto tutto tu. È sempre così, no? Fanno tutto sempre le donne, noi non contiamo assolutamente nulla. E a proposito della proposta, dai, dici un po', raccontacela. Intanto, chi è il fortunato, perché non ci hai ancora detto il nome? Jonathan, benissimo. Mi ha fatto la proposta a novembre. A novembre, ok. Anche in ginocchio. Anche in ginocchio, anche. Addirittura, la vecchia maniera, giusto? La vecchia maniera. Mi ha chiesto anche la mano alla famiglia, proprio... No, no, quello è troppo alla vecchia. Quello è troppo alla vecchia. Ha preteso che venisse chiesta la mano. Beh, quindi, beh, ma era un posto speciale, particolare, una cosa... Da anni che eravamo già andati noi, le prime volte che siamo usciti insieme. Allora mi ha proposto, siamo andati in una stanzetta da soli. Ah sì? Ma tutta la cena è stata da soli o... Ah, quindi ha proprio prenotato... Ovvio che con un anello. Ha prenotato una stanza privata, insomma. C'era questa saletta privata e lui ha prenotato una saletta. Però, bravo, vedi che insomma ci criticate tanto, ma gli uomini di una volta ci sono ancora alla fine, Pochi ma ci sono, e tant'è che si sposano, vedi, e quindi come dire, il mercato già langue e in più quelli buoni si sposano, quindi fate in fretta e cercatevi in fretta, perché stanno finendo, stanno rimanendo solo quelli cattivi. No, non facciamo bella pubblicità così, anzi dai, abbiamo parlato di uomini, direi di parlare anche di donne, quelle che sono qui con te questa sera. Chi c'è qui con te, vuoi dirci? Simone, che si chiama Elisa. Ok. Che tra l'altro che brilla di luce propria, perché ha un vestito poco appariscente, che sì. È vestita da lampadario praticamente. Adesso appena va a casa si riappende al muro, perché insomma è scesa solo per questa serata per partecipare, e poi ritornerà a illuminare i volti e i visi degli abitanti di quella casa. Sì, poi mia mamma, sì, che è quella che ha preteso la richiesta della mano. Mia zia. Wow, è quindi bello in famiglia. E anche mia sorella. Ah, è tua sorella, vedi, abbiamo fatto tutto. E no, famiglia, dai, raccontateci un po' qualcosa. Diteci, raccontateci un po' di Marzia, dai. Che tipo è? Fatecela conoscere un po' meglio. Basta, silenzio, stanno. Non vogliono farti conoscere. O sei una bruttissima persona. Ti dica che è la figlia perfetta. Vedi che già qualcosa ci sta raccontando. Basta, perfetta, meglio di così come si può avere. No, perfetto, bene, vedi che prima o poi, per quello che io, perché capivo che c'era poi, sarebbe uscita l'orgoglio, ecco, l'orgoglio familiare di dire un'altra figlia buona. Dai, anche la sorella, vuoi dire qualcosa, la sorella? No. Ah, okay. Allora guarda, ti faccio una domanda, vivi già da solo o vivi ancora in casa? sono già sposata. Ah, ciao, avrei voglia. Perché con tre figli, quindi vabbè, fai, come dire, fai tutorial praticamente per tua sorella. No, chiedevo perché solitamente se le sorelle partecipano ad Dio Nubilato è perché in privato stanno festeggiando una camera in più che si libera. Quindi solitamente funziona così, no? Cioè, se c'è una sorella che partecipa chiedendo, un po' investigando, solitamente la risposta è no, beh, però va via di casa, io ho una camera in più che si libera e ci metto la mia cosa. Il fratello è l'ultimo che resta. E vedi che qualcuno una camera se la trova sempre in più comoda per permetterci un po' di cose. Ok, vuoi mandare invece un messaggio tu? Vuoi dire tu qualcosa? O a loro o al tuo ragazzo, come vuoi. Non è obbligatorio, se vuoi, visto che c'è un microfono, poi ti potrai riascoltare e poi puoi dire qualcosa. Niente, è a posto così. D'altronde è tutto a posto, è tutto pronto, loro sono pronti, direi che non resta altro che aspettare il 7 e viva gli sposi, certo. E farete un viaggetto, farete qualcosa? Sì, partiamo lunedì 9, andiamo a Zanzibar. Bello, non è anche una meta, come dire, tradizionale per questo tipo di viaggi, per cui l'avete già vista o è la prima volta? No, è la prima volta. Prima volta. Beh, insomma, il mare a settembre direi che non è assolutamente male. Beh, insomma, comprensibile visto che ci saranno stati gli ultimi preparativi, però un mare del genere a settembre direi che è molto molto bello da vivere e da come esperienza da fare. Ok, allora in bocca al lupo Marzia e grazie di essere stata con noi, grazie a loro che ce l'hanno portata negli studi per farcela conoscere e auguri, tanti auguri per il tuo futuro matrimonio. Ciao! Ciao!